Yes people, come tutti i mercoledì, piano piano cominciamo. Questa è Port Royal, fai abbombabile nei controlli. Ready, feel ready. Get out of restless wind, tossed on a troubled sea, churning down a raging storm, headed for shore, bringing certain calamity. Just when you thought you'd frighten none, can be nothing worse than this catastrophe. Jah, rain down fire and brimstone, carry a stony heart like Pompeii. The slick funeral of fire, eyes burn with ash, looking upon Ayakam. Blazing across horizons, fire. Feeling something wicked this way comes to town. Better run, run, run, run. There's a man's son with a gun. But it's a hard rain gonna come. Blast you down before you turn to stone. Quasi in orario questa sera. Quasi non ci si crede, eh? Too late, some say they be waiting for the right time, right time. The far horizon sees still let the sunshine. No matter cause all tides rise, it's all ships at the same time. Since I'm hurling down the street side, sinking deep below the quagmire. The other mates go down, down, down to no time. In apertura di serata saluto mio fratello Smash, che oramai mi si è trasferito a Los Angeles. È proprio per quello che partiamo in orario adesso, no? Forbidden fruit, don't you pick a bad batch still in his youth. Living like a bad seed, making choices you just can't see. The outcome destroys and deceives what your twisted heart just perceives. Yeah, I mean, I'd be made of stone to bring out the worst in me. Sure, I might be made of stone. You're my anchor when I'm partenogenesi. This monster lives underway. Diventiamo mezzi milanesi pure noi. In a cave, no one can say, or see, or find, or feel me. Better run, run, run, run. Solo 3 minuti di ritardo stasera, eh? But it's a hard rain gonna come, blast it down. Un audio perfetto. And a run, run, run, run. There's a man's son with a gun. Confermami regia. Rain gonna come, blast it down before you turn to stone. Ma comunque non vi preoccupate, eh? Il DJ Smash stasera non ce l'abbiamo in diretta, ma ci ha mandato comunque contributo. Perché noi come ogni mercoledì, e a differenza del mercoledì scorso che non sono riuscito a mandarla, sapete che c'è? Che siamo ancora qui. Ho rosicato tantissimo di non essere riuscito a rimandarla, eh? Trento Ruzzo ancora qui. E pensare che siamo ancora qui. Salutiamo tutte e tutti gli amici all'ascolto. Non faccio nomi ancora, eh? Li faccio tra un pochetto. E torniamo così. Ancora qui Trento Roots. E pensare che siamo ancora qui. Forse è meglio non illudersi, non guardare in basso che non passerà, la paura di cadere giù, passo dopo passo ti ritroverai, quando ormai non... sogni ancora lucidi, niente più da perdere, da piangere, corri forte, ora sei libero. Quanta strada ancora e quanta ne farai, il viaggio è gioia, non temere mai. Giorno dopo giorno ti ricorderai di quando ormai non ci credevi più. In piedi sui pedali ancora una salita, rialzarsi dal tappeto, tanto ormai è un'attitudine, sembrava impossibile. E pensare Trento Roots, saluto ancora i miei fratelli, i miei gemelli diversi, uno in quel di casa sua, qua ancora a Roma, quell'altro che purtroppo, come tutti i calabresi, si è andato a espandere nel mondo. Bless up DJ Smash, nella sua prima settimana a Milangeles, e ancora non è stato arrestato, quindi incredibile. Perché sono proprio i ragazzi come lui che sono la speranza della nazione. Riprendiamo una vecchia tradizione, che poeta metropolitana, oh, tutte rima baciata. Jacob Killa Mill Ellen Dimesci. Please Mr. Minister, a word with you. E così gli facciamo gli auguri di compleanno. So don't you screw. Io ci tengo all'amici. You know fight against the rum man. Yeah,

sentito distintamente parlare di Sally Brown, e quindi vi ricordo che domani sera saremo Fire Upon Babylon, quel che ne resta della full crew, quindi io e Smash, Puddu, Auta, Ione Roots e soprattutto Rasta Lady e Shiny D. Partiamo da Rasta Lady, featuring proprio Rione Roots, così ne prendo due con un colpo solo. Questa è Criminal Smoke. Rione Roots, Criminal Smoke. Esiste un sistema di ignoranza e repressione, al bando le droghe leggere senza avere ragione. Ti dicono che fa male, ti dicono che è illegale, che se la pianti a casa te vengono prelevate. Allora sul balcone non la posso coltivare, ma a volte per la strada me la devono cercare. Con rischio di farmi beccare, con rischio di diventare per lo Stato un criminale con la voglia di fumare. Illegal criminal smoka, ayena ayena ayena ay. Illegal criminal smoka, Rasta Lady, it's a criminal smoka. Rione Roots, it's a criminal smoka, ayena. Come on, come on. Non ci metti il pure una legge da tutto sta peggiorare. A confronto mezzo spina è peggio che danno a ruba. Non mi sento di sbagliare, io voglio solo fumare. E se questo è un sistema non mi piace sto cantare. Io la ketamina non la voglio via, che con l'eroina te vuoi proprio rovinare. E se si parla d'ecstasy poi la testa fa il sofà. Io me fumo una cara che male mi può fa. Ayena, ayena, illegal criminal smoka. Smoka, ayena, ayena, ayena, illegal criminal smoka. Con la chitamina non la voglio via, che con l'eroina te vuoi proprio rovinare. E se si parla d'ecstasy poi la testa fa il sofà. Io me fumo una cara che male mi può fa. L'ora sul balcone non la posso coltivare, ma con rischio di farmi beccare, con rischio di diventare per lo stato criminale con la voglia di fumare. Shiny D live show al Sally Brown, Fire Upon Babylon, Puddu, Bondi Selection. Continuiamo ancora Rasta Lady sulla linea di confine. Shiny D alle produzioni. La Golden Green, la produzione e la distribuzione. A volte capita sentirsi sulla linea di confine. La vita va da sé e tu sei proprio lì, immobile nell'occhio del ciclone. Un'altra decina di minuti. A volte capita. Poi osh. Infine la vita va da sé, tu sei proprio lì, immobile. Nelle ore senza tempo, il tempo lento passerà. Continua a ipotizzare su quello che succederà. Vorrei poterti dire che qui tutto può bastare, ma piove.

underground. Rubba ba ba bam bam bam bang bang, he shut you down. Hit the ground, oh Lord. It's rubba. Big up fire from Babylon sound. Bada ba da ba ding dong. Ciao a tutti amici, sono Boon di Africa Unite e volevo salutare tutti gli ascoltatori di Port Royal e Fire Upon Babylon. Restate sintonizzati, seguite programmi come questo, supportate la reggae music. Yes I, Boon Assesso, Wicked! Stasera c'è sul fiume che fiotta così. Disgraziato chi sogna e chi spera, tutti al mondo dovemo soffrire. E se un'anima cerca la pace, può trovarla soltanto che qui. Ragazzo Brusco, sostengo anch'io Port Royal e Pirate Radio, questo è il mio ultimo singolo, Barcarolo Romano. E dai, cademo in piedi, siamo diventati equilibristi. Camminando sopra i San Pietrini, siamo pronti a tutti i tipi di imprevisti. Tra le preghiere dei preti e le bestemmie dei tassisti, tra i politici ignoranti e i netturbini assenteisti, c'è gente di tutte le fedi, ma prevalentemente romanisti. Era la città dei santi, ora invece è la città dei sinti. Siamo lì più cacciaroni, siamo arroganti, ma non siamo finti. Siamo più belli davvero dei come i pittori ci hanno dipinti. E Barcarolo va contro correnti, e quando canta l'eco si risente. Se è vero fiume che per questa settimana pace, questa è la mia ultima tune. Fiume affadato, un bacio a tutte e a tutti. Lo chiamano biondo, ma è grigio, marrone. C'è scorre la storia del mondo, ha visto la liberazione. Ne ha viste le giovani coppie, parliamo di qualche milione. Scambiasse promesse d'amore, scambiasse sul fiume, un fiume di parole. Come fai a togliere sta canzone? Ammazza quanto hanno bevuto, qualcuno c'è pure caduto, vabbè. Qui prima ci si nuotava e prima ci si navigavamo. C'è solo qualche barcone, c'è un angelo sopra un castello e pure una vecchia prigione. E quando è una bella giornata, di quelle che luccica il sole, che bello che fa colazione, gabbiano se magna un piccione. Capirai, devo andare alla posta con lo spirito del gladiatore. Te saluto per l'ultima volta, core chiama un prete per l'estrema unzione. Il turista ha sbagliato stagione, si è fatto l'estate romana, si fa il bagno nella fontana, in cappuccino con la matriciana. E noi che dopo il cappuccino sapete tutti come andava. Lo famo un bianco a Corfino e poi lo dissanguiamo come una zanzara. E Barcarolo va contro corrente. Sappiamo tutti come andava dopo un cappuccino. Ve lo ricordate, sì? Come si chiamava ai tempi vostri? Tu dai la pace. Questa vi saluto, vi do appuntamento domani al Sally Brown. Sabato in tifata Villa Ada. Farima e ste staccio. Poi settimana prossima parleremo meglio del 18 ad Andorra. Bless up yourself, bella a tutti e a tutti. Questo è Port Royal, tutti i mercoledì. Fai a bombabile in session Pirate Radio. Dialosh! Yes, I Massive, original Nerone in the place. Anche io sostengo Pirata e Radio, Port Royal e Fire Pan Babylon in the place. Fire! Ehi, schiaccia play. Poi dopo un po' vedrai che prende fuoco il posto quando partono i bassi, calze rullanti pesanti come massi, i DJ levano dalle maniche gli assi che hanno in serbo per la Massive. Bam! E cambio ai controlli e cambio al microfono, un salutone al mio fratellone Taueli e un altro salutone a DJ Smash in quel di Milano, ma sempre con noi. Sempre con noi perché appunto anche questa sera, nonostante la distanza, ci ha mandato un mix spettacolare che passeremo a breve. Intanto, primo pezzo per me e un saluto a tutti e tutte. Say it if you want it loud. Take it easy. Take it easy. What's the hurry now? What's the rush? Take some time out, burn some kush. Life too short, have you always on the go-go. See, see my trick, you have you spinning like a yo-yo. What's the hurry now? Play it cool. Some will tell me, say me, just a fool. E iniziamo easy, easy. Port Royal. Sometimes you don't. Tutti mercoledì dalle 21 alle 23. Feels like you're going nowhere in a hurry. What's the hurry now? What's the rush? Take some time out, burn some kush. Life too short, have you always on the go-go. See, see my tricky, have you spinning like a yo-yo. What's the hurry now? Play it cool. Some will tell me, say me, just a fool. But hustle, you hustle for the money and you don't know. But it's alright if you take it real slow. Sometimes it's alright if you want it loud. Take it easy. Take it easy. Yeah, cause in this life we all fi move forward. No bring no fuckery around me, no drama. We done with the bag of shit talk of them karma. You reap what you sow, you is a farmer. Like you know, you plant one bad seed, you talk a grow. 50 million bad seed, you know, so them a troll. God help them, cause they never know. Make the goodness in your heart take control. Because you don't have to worry. Feels like you're going nowhere in a hurry. What's the hurry now? What's the rush? Take some time out, burn some kush. Life too short, have you always on the go-go. See, see my tricky, have you spinning like a yo-yo. What's the hurry now? Play it cool. Some will tell me, say me, just a fool. But hustle, you hustle for the money and you don't know. But it's alright if you take it real slow. Sometimes say right if you want it loud. E siamo arrivati solo al mercoledì di una lunga settimana, ma a noi piace così spezzare la settimana con Port Royal, quarta stagione per noi, come ha ricordato prima il mio fratellone Tauli. Siamo partiti alla grande 4 anni fa direttamente da casa e da casa continuiamo a trasmettere, ma nonostante tutto ci trovate tutti i mercoledì dalle 21 alle 23. Ovviamente in diretta su Pirate Radio, ma anche al Brancaleone. Un saluto a tutti e a tutte quelli che passano e frequentano lo spazio del Brancaleone. You know, sense of smoke a segment right now. What's that? Anthony B and Ziggy. Yeah, ready for me as you talk back up all the two battles and Biggie. How you mean? Check it out. You know me. Crazy till my eyes turn red. Ready for go get a higher heights, yo. And when me burn it, me ready for all I'm head. Babylon, them couldn't fight the herbs, yo. You know me. Crazy till my eyes turn red. Ready for go get a higher heights, yo. And when me burn it, me ready for all I'm head. Babylon, them couldn't fight this, yo. Keep burning. They just keep looking over my way. When my light is big and just lift up on the highway. You know we keep it burning Friday to Friday. Good sense you got to keep the massive feeling okay. Hey, tell them it's the healing of the nation. Take away frustration, make them all a higher meditation. No matter what the situation, got to keep the burden of respect to all the herbs, man. You know me, ready till my eyes turn red. Ready to go get to higher heights, yo. And I'm me, burn it, and ready for all I made. Babylon, them couldn't fight the herbs, yo. You know me, ready till my eyes turn red. Ready to go get to higher heights, yo. And I'm me, burn it, and ready for all I made. Hey, I said I couldn't fight this. So Rastaman plant it in the hills of Jamaica, find it in the country of Alan, acre by acre. It's a gift from the creator. Find it in the US of A, in the state of California. Roll it in a spliff and make it burn. It's the food that talks, allow me make me learn. Some me hustle, some me juggle, some me earn. You no care about the poor, no tell me about your concern. You know you say a ganja man turn. So tell your coffee is up this time I won't be arrested. For the little marijuana I've been molested. You know you go and crack me not interested. Ganja me crazy till me eyes turn red. Ready to go get to higher heights, yo. And when me burn it, me ready for all I made. Babylon, them couldn't fight the herbs, yo. You know me crazy till me eyes turn red. Ready to go get to higher heights, yo. And when me burn it, me ready for all I made. Hey, I said I couldn't fight this, yo. So right now, me see them one patrol, I try to find the herb. Them want to take it for your crime when them a find the herb. Them want to make you lose some time when them a find the herb. But still they don't know every time we just a blaze the herb. So pass the whistle right now and make me roll it up. And if you split for red, the bill, me want you light it up. And let me see some signal if you know you leave it up. And Tony B is gonna blaze it tonight. Yeah, you know me, blaze it till me eyes turn red. Ready to go get to higher heights, yo. And let me burn it, ready. My ladies, you know you gotta run away with me to the islands. To the island life, hey. She says it's everything that she likes. We brought some fruits from the fruit stand, roots from the roots, man. Coconut water, will we get it from the jelly man? She had a piece of my sugar cane, and then she hasn't been the same. She said. Mommy ripe and ready for a couple youths. Forever on this island cruise. Tell me baby how could we lose? She love the yucky and the salt fish. Yum from the market. Sweet cocoa tea or some real hot chocolate. But when she tastes my sugar cane, and then she hasn't been the same. She said Sugar cane. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. thanks and forgive me. Send the pens and up the danger, the door of future. Right. Crime on the violence, be killing all the youth, yeah. Let the joy of your heart find the tide. Respect each other's food, your differences aside. It's all to your poor your people. Why don't you raise up the morals of the people? Like the old saying, it's good over evil. Since I'm not going to drink a lunch with them, no for season. There is a lack of love in our society. Pain is a thing, that's a not priority. Why is never it? Never let it go. A lack of hope in our community. Man, fusion around the vicinity. You just let it go. I'll be positive. Over your weakness, find some so forgiveness. The greatest gift is life eternally. And what you wish is like is our abundantly. So it's your desire, like your nature, your identity. Oh. And divinity, the eternal thing. That is so we got to show love. Because we only show love. All we need is more love. Just heads up history. Why you breaking down the branches of the wisdom tree? There is a lack of love in our society. Pain is a thing that is not a priority. But never let it go. Strength for your weakness, find some forgiveness. There is a lack of hope in our community. Man, fusion around the vicinity. You got to let it go. Strength for your weakness, find some forgiveness. There is a lack of love in our society. Kindness is in that are not priority. But never let it go. Fire, fire, fire, fire, fire from Babylon. Yes, Pupa Raina, stai in ascolto di Port Royal su Pirata e Reggae Radio Show. Boom! E salutiamo Raina e tutta la Villada Posse. A breve appunto inizierà anche la stagione in quel di Villada, ma prima di iniziare la stagione in quel di Villada, domani sera ci trovate al Sally Brown, già il fratellone Tavoli ha spoilerato quella che sarà una bella serata, Shiny D, Firebob Babylon ovviamente in session, Puddu, abbiamo Germana alla voce e soprattutto vi aspettiamo al Sally Brown. Blessed to get to you them, through stress and pain. No matter how tough and hard I'm out here. Boy, boy, boy, my people cry. Boy, tell your mama hungry, papa hungry, brother hungry, sister hungry. Do something for the poor. Open up the door. Tell them mama hungry, papa hungry, brother hungry, sister hungry. Do something for the poor. Open up the door. The one your name, 1 million miles away. Babylon of my people afraid. Work them night and day, and don't give them no prize. So my people rise and give wicked man a surprise, and burn them in front of them eyes. That they treat poor people like flies. Tell them mama hungry, papa hungry, brother hungry, sister hungry. Do something for the poor. Open up the door. Tell them mama hungry, papa hungry, brother hungry, sister hungry. Do something for the poor. Open up the door. Tell them say minimum wage, we not work half of that. Poor people want more food in a them party in a the ghetto. Yo, me see a dead a you drop. I want take some soldier hand cap. Yo, me hear broom, braka, braka, me go half sour that. Me a pan the shutter, me sign a sun drop. I want this father, them now hold them harder. Ghetto, you fi cross the border. Tell them mama hungry, papa hungry, brother hungry, sister hungry. Do something for the poor. Open up the door. Tell them mama hungry, papa hungry, brother hungry, sister hungry. Do something for the poor. Open up the door. The one you're near, 1 million miles away. Babylon of my people astray. Work them night and day, and don't give them no pay. Some people rise and give wicked man a surprise. Burn them in front of them eyes, cause they treat poor people like flies. Tell them mama hungry, papa hungry, brother hungry, sister hungry. Do something for the poor. Open up the door. Tell them mama hungry, papa hungry, brother hungry, sister hungry. Do something for the poor. Open up the door. Don't turn your back on the farmer man who plant a Abraham family. Cheat with the nurse and the teacher them. Why no focus and feature them? Oh, my people cry. Tell them mama hungry, papa hungry, brother hungry, sister hungry. Do something for the poor. Open up the door. Mama hungry, papa hungry, brother hungry, sister hungry. Do something for the poor. Papa Sam, Papa Sam, Papa Sam, Papa Sam, come and dance the position of your ram lad. Believe it or not, we stand predominant. I win a ramp, I win a like excitement. Come down, cause strictly enjoyment. Live by. Hey, follow me. Magnificent, magnificent, magnificent, magnificent, diggy diggy diggy ding. Magnificent, magnificent, magnificent, magnificent. Follow me now. Magnificent, magnificent, magnificent, magnificent, diggy diggy diggy. Magnificent, magnificent, magnificent, magnificent. Come now. Permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent. Me too. Sit on top of the pretty man, sit on top of the version. Papa Sam, come and dance the position of your lad. With some mouth, they mic in a million. Me kick up on the ridge. Like a me a stallion. Follow me now. Woman a woman and man a man and style a style and a pattern a pattern. Oi, sound a sound, old pan a old pan. Well yes, Papa San young one dem my veteran. The ball burn him in it, burn him in it, burn him in it, burn him in it, burn him in it, burn him in it, burn him in it, burn him in it, burn him in it, burn him in it, burn him in it, burn him in it, burn him in it, burn him in it, burn him in it. Follow me now. Burn him in it, burn him in it, burn him in it, burn him in it. You better act distant and intelligent and always try to live independent. Me operate like a dem a call him president, but in a this announcement, no one of violence. In a DJ school, you have enough students. And when me, I taught them off, to keep silent. Say, God make each man wait 5 cents. And some of them, my quarry said, them can't buy a lent. But render your heart, but not your garment. Me live in a house that I said, an apartment. Me is a DJ, man, me don't pay rent. You have gonna riot, take penicillin. PWD, staff in public work department. Me and me yellow fight, me lick up with the bench. And me a walk around, it's still a look argument. Jam and me say me can't take the excitement. Me come in and the era, them a call me president. Me flash couple lyrics, them a say a judgment. And some of them a talk about the excitement. The other one a talk about the entertainment. To them, drink the wine of astonishment. And the father put them on the punishment. Come now! Burn him in it, burn him in it, burn him in it, burn him in it, burn him in it, burn him in it, burn him in it, burn him in it, burn him in it, burn him in it, burn him in it, burn him in it. Guarda come l'aria si riscalda quando si sono voi. Selezionano musica reggae, musica buona, musica genuina, DJ style. Big up Firebomb Babylon, big up Sierra Maestra, Wireman, Auto Centrale Sound System, dedica speciale a Sea Sound Boy, Osh, Taweli, questo è per voi, non listen, ciao! Oh, guarda come l'aria si riscalda, se Osh seleziona, se la massi balla. Oh, seguimi con le gambe assai veloce, che io te venga appresso con la voce sulla base. Oh, guarda come l'aria si riscalda, se Taweli se la canta, se la massi balla. Oh, seguimi con le gambe assai veloce, che io te venga appresso con la voce. E allora? Ragamuffin è lo stile che gli piace fare tutti i giorni. Dai e dai e mo saranno già una cifra d'anni che ci stanno in fissa e tutti quanti nei momenti. Moda dopo moda, eventi dopo eventi. Loro stanno attenti a tutti quanti i cambiamenti. Roots, raga, dance, all stili assai potenti. Benzina per il corpo, cibo per le menti. Ah no, mo guarda come l'aria si riscalda. Se osce seleziona, se la massi balla. Mo seguimi con le gambe assai veloce, che io te venga appresso con la voce sulla base. Mo guarda come l'aria si riscalda. Se Taweli se la canta, se la massi balla. Mo seguimi con le gambe assai veloce, che io te venga appresso con la voce. Musiche liriche positive, Firebomb Babylon porta in danza. Come sole al tramonto si fondono in una sostanza. Come quando sulla spiaggia s'abbracciata la tua bella. E sembra che solo per te brilli quella stella. Se non hai problemi, chiudi gli occhi e balla. Se c'hai mille patemi e la noia te si incolla, vieni in dezzo là, così si c'è balà, piante rende zolla. Mo guarda come l'aria sta riscalla, se osce seleziona, se la massi balla. Mo seguimi con le gambe assai veloce, che io te venga appresso con la voce sulla base. Mo guarda come l'aria sta riscalla, se ta quelli se la canta, se la massi balla. Mo seguimi con le gambe assai veloce, che io te venga appresso con la voce. Per sognare, per cantare, basta un po' di musica. Per cambiare la vita, quello che dici va messo in pratica. Deduzione logica, ma quanta fatica ti dico se fa. Per diffondere che in armonia e libertà la sai una cosa. Sta base scotta, e quando che c'è zoppi sopra c'è devi solo canna manetta, la sai una cosa. Sto riff è magico, è come la vita, sta bene sta male, non c'è mai niente de logico. Big up Firebomb Babylon, big up Sierra Maestra, Osh, Taweli, Quayama, Auta Centrale Sound System, De Gore, sing. E ritorniamo qui in diretta, abbiamo rispolverato qualche dubplate appunto datato di qualche anno, prima Taweli, il fratellone, si era spinto e risuonato salutando i Dabba Dab, ora appunto abbiamo ricacciato anche questo dubplate di anche questo 14 anni fa, quindi un salutone a Arquai, a tutta la centrale Sound System, oltre che Zero Para di Viterbo. E fra i tanti fratelloni storici saluto anche Kawa, tutta la regmania, la chat ricca e attiva, e soprattutto un supporto ai Kawa che hanno iniziato un bel percorso per riprendersi un posto che noi abbiamo conosciuto con la famosa scampagnata reg, che sono le cave di Guidonia. Speriamo che questo progetto a breve abbia una bella risoluzione. Proseguiamo la puntata, un altro dubplate, anche questo piano piano inizia ad averci qualche annetto. Fire upon Babylon, a big sound, boom shot, ready, are you ready? Vedo luci nella notte che scaldano questa dance hall. Music all night long, fire upon Babylon, yeah. Luci nella notte, scaldano questa dance hall. Music all night long, fire upon Babylon. Quello che ti dico è che la gente non capisce cosa vuole dire dare veramente anima e cuore per la musica. Sì, per i massicci, per la mia messi. Va così, mo rapido e intrepido. Toweli col microfono subito. Quando scaldano il pubblico, fagli pulito subito, subito, subito. Nuova moda, voga, voga, roba, doba, rock steady. Voga, voga, rock it, clap it, please don't stop it. Move it, whine it, whine it, really be fire upon party. Fire upon Babylon. Questa dance hall, music all night long, fire upon Babylon, yeah. Ancora luci nella notte, scaldano questa dance hall, music all night long, fire upon Babylon. Smash DJ, metti il disco in play, ti prego, Osh, come again. Quante volte lo risentirei? Balla signorina che io ci metto la rima e la ribassa la puntina, che sta c'è una mena mena mena i timpani. Per le pischele, per i pischelli, e va così, mo rapido intrepido. Toweli col microfono subito. Quando scaldano il pubblico, fagli pulito subito, subito, subito. Nuova moda, voga, voga, roba, doba, rock steady. Voga, rock it, clap it, please don't stop it. Move it, whine it, whine it, ready for fire upon party. Fire upon Babylon. Fire upon Babylon.

things will happen if we all just have faith. I know it's gonna be, just can't tell you a time or day. It's up to us to make haste. Mezz'ora di Porto Royal, partiamo di tutto mondo se guarda, distrugge tutte cose con un baduardo dalle spalle. sano, una nuvola tossica, una terra rossa e la mia gente che soffoca. Qua giù la vita quanto costa, voglio una risposta. Se tutto quello che ci uccide lo chiami risorsa. Denunce, marce, sbirri antisommossa, la pelle riarsa di chi combatte una guerra già persa. Stretti in una morsa, forza, diamo fine a questa farsa. Forse ci meritiamo una fine diversa. E non so dove Dio sia, se ricoperto da diossina, che a cercarlo in questo cielo ci ho perso qualche diottria. Una volta da quel lato si vedeva una collina, ora c'è il cielo aperto sulle scorie radioattive. Un fumo scuro, così scuro che non brilla più la luce, sono rimasto al buio. Non vedo ad un palmo dal naso, non c'è più nessuno. Non si scorge l'orizzonte, non c'è alcun futuro. E anche in mezzo alle persone mi sento un po' escluso, perché ormai la legge legittima il sopruso. Il potere perpetra l'abuso, io mi sento stufo. Che se combatti un calcio in culo e poi vieni rinchiuso. I bambini hanno imparato che è normale, perché gli hanno insegnato a non amare. Vincere e sognare, soffrire e arrancare, perdere e combattere, vivere o mangiare. Devo essere la iena fuori da sto branco. Sti tagli lasciano più superpoteri di Anko. Quelle serate siamo tutti più persi nell'alcol. Poi volo alto con le ali spiegate di un falco. La polvere sopra i CD che ha raccontato tanto. Le notti ferme nei parcheggi, botte sull'asfalto. Con una squadra di fratelli lasciati allo sbando. Noi sopra questi grattacieli aspetto il turno e salto. Stronzi da apprezzare, testi da spezzare il fiato. T'apprezzare brucia come sul molare, l'acqua e sale. Animal the cannibal, happy birthday. Pari incredible, jazz come Coltrane. La mia genetica mi guida, sento i diavoli e le grida. La mia gente fuma, sbobba, tutti messi in riga. È Pulcinella come la mia vita. Porto quel disagio nel mio suono, ma la gente vuole che io rida. Mi porto con me i posti dove sono stato, le persone buone che qualcosa hanno lasciato. Tutte quelle volte che mi è stato tolto il fiato, tutte quelle volte che sono morto e parinato. Porto con me cicatrici dal passato, notti fredde letteralmente disperato. Tutto quello che mi è stato tolto e paridato, tutte quelle volte che sono morto e parinato. Ehi, mano trema quando scrivo ancora troppo forte. Ricordo tutti i posti dove facevamo corse. E le ginocchia graffiate rendono più bombers. E solo quando le sfondate si aprono le porte. E mo si pronta finalmente a affrontare sta vita. E brutti cose che rimorse stanno ancora in. Quando pensavo in quel momento che era già finita. Ferite come tatuaggi sulle mie dita. Ricevi pacche sulle spalle dagli amici tuoi. Decidi di scappare gli orizzonti nuovi vuoi. Vogliamo sbattere il passato indietro, a volte so che resterà per sempre come un singolo dei Doors. Arrabbia cama sporca l'anna menu marrenar. Ca guarda sabbia nanzo mare e se mette a pensà. Ringrazia Lucia coppa tutto perché l'ha salvata. Ma che sta cicatrice non se leverà sta carne. Ho capito che bisogna dirlo quando è torto. Se va tutto bene meglio, ma sbagliando puoi capire molto. Solo chi ti vuole bene ti aiuta a non finire capovolto. Sono morto, eri nato, poi rimorto, eri sorto. Siamo esseri umani, con pregi e difetti. Ci facciamo male, dopo rimettiamo insieme i pezzi. È ora di andare a ballare così da evitare di fare progetti, di fare qualcosa di bello per poi raccontarlo da vecchi. Mi porto con me i posti dove sono stato, le persone buone che qualcosa hanno lasciato. Tutte quelle volte che mi è stato tolto il fiato, tutte quelle volte che sono morto e parinato. Porto con me cicatrici dal passato, notti fredde letteralmente disperato. Tutto quello che mi è stato tolto e paridato, tutte quelle volte che sono morto e parinato. Ehi, c'è una croce che poi tanto tutto passa, però non passa mai, no, non passa mai. Legend, legend, legend. Bob Marley compilation. Rastaman in a vibration. A indigo in a my nation. With them, with them, with them, with them. All them men up, I use his lies. Them just talk and scrutinize. A boy gone in a violation. Legend, legend, legend, legend. Bob Marley compilation. Rastaman in a vibration. just indigena my nation. With them. Legend. Hey, tell them. Exodus, Bumbocla, you can't stand next to us. Some attack and tan, one get with us. Babylon, them gone, one get the bus. If I want thing, we learn from the Bible. Can't even trust your disciple. When idol, them turn to rival. Confrontation, uprising, survival. We lost, we limp on my arrival. Zimbabwe, them catch a prey. Accra, Lagos, Nairobi, Riot. Addis Ababa, we free. Highly, them can't conquer we. The most I can't get no higher. Not the dread burning the kaya. The whole place, it must catch a fire. Legend. Bob Marley compilation. Rasta man in a vibration. A indigena my nation. With them. All them up, I use his lies. Them just talk and scrutinize. A boy gone if a violation. Legend. Bob Marley compilation. Rasta man in a vibration. Indigena my nation. With them. Legend. Why would I be like? Bobbing on the flesh. No shirt with the vest. Guitar gone on your neck. As me talk money make. But money don't make you rich. Life are the greatest gift. So when you see me out here live, no say. If I egg we in a the raid. Man a top ranking already. No put it then pa me head. Just easy skanking it steady. It's one love people get ready. Can't keep them waiting in vain. Them gon' remember the name. When time them see me them saying. Legend. Bob Marley compilation. Rasta man in a vibration. Just indigena my nation. With them. All them men up, I use his lies. Them just talk and scrutinize. A boy body die up key. Macchie di sole. Spari dagli occhi, macchie di sole, luccica per me, iride, tu mi spari dagli occhi, macchie di sole, luccica per me. Luce tua mi passa attraverso come fossi vapore. Oggi trovo un senso per non essere io. Chissà se mi sveglio. Devo respirare le persone. Aria nuova, aria tossica. Aria mia, tu mi spari dagli occhi. Di sole. Oggi che ho scelto di non essere io. Chissà se mi sveglio. Devo respirare le persone. Aria nuova, aria tossica. Fire Pom Babylon. Yes, so Pupa Raina, stai in ascolto di Port Royal su Pirata e Reggae Radio Show. Boom! If I never feel fucked up, we wouldn't dare so tall. Mm-hmm. to take the time to chant a prayer. You've blessed my life eternally, I'm grateful. In the midst of enemies, you keep my faith full. Sometimes I fail, of course, sometimes I falter. And feel as though you've left me in a corner. But here you are, the light upon my tunnel. In the middle of the night, you say you are. I'm gonna make such a joyful noise to the Lord, overcome some me, I fear, rejoice. I'm here to sing songs of praises and use of my voice. In every single tune when me write, so many places me walk. If I never feel far, I me would I never dare so attack. So many nights struggle by, I me see the man I write, and I breathe it in the night. All that glitters just ain't gold. At times I'm broken, all alone. Father, I've got to take the time to chant a prayer. You've blessed my life and I'm so grateful, yes. You've blessed my life, yes. Sometimes I fail. How good and great, how good and great. Salto tra i palazzi, c'ho la scimmia, la mia baseline strilla. Discendenti della villa, a Roma ci conosci se fumi. La sensi migliato col cielo, con la pinna, bazza un killa. Flow meraviglia, sopra il BDJ di là. Tripla, tenta in lilla, spingo fino all'ultimo tiro della partita. Sono 5 anni che non faccio un disco, Spotify spilla visto. Scusa ma se non vi stupisco, preferisco stare zitto. Suona bomba, me fisto, se non flowa non la registro. Voglio solo un ritmo da Kingston, dalla nota prima dell'intro. E dal primo liceo che facciamo tutto da soli. Conici, cantanti, backliner e produttori. Se vuoi costruire non servono i milioni. Serve solo la voglia di spaccare i mattoni. Dalla cantina fino al sole, senti forte l'amplificatore. Alza per sentire nuove storie, e ti portiamo altrove, via da sto grigiore. From the cantina to the sun, we have a way out. We light up tunnels like a generator. My Google Map is the Lord Creator. Now go allow the evil heart to be my savior. I'm digging deeper than an excavator. We keep it real, it's not a simulator. And we much greater than Alexander the Great. We getting pure love by ignoring the haters. What Rasta tell you is like the revelation. Local the haters and the dirty Babylon. Real them lyrics and the meditation. In a cantina pooper combination. Lyrics are fly them super sasa sonic. Supersonic. Here comes trouble singing pooper chronics. Pooper chronics. Your spread lina, we no sip no tonic. Dalla cantina fino al sole, senti forte l'amplificatore. Alza per sentire nuove storie, ti portiamo altrove, via da sto grigiore. Dalla cantina fino al sole, senti forte l'amplificatore. vestire nuove storie. Ti portiamo altrove, via da sto grigiore. From the cantina to the sun, we have a way out. I want caca with you say. Yeah. Alale. Brick from bricks like Money Mike. Rich and winner hype. Money Mike. G800 ready now we take flight. Gas up the road right. Money Mike. Me a walk like Money Mike. Watch me a prof like Money Mike. Me not to take talk and my money right. I mean I look gyal yeah to caca tonight. Give me your Money Mike. Point your finger, sip your liquor, make your girl take a picture. My gusta, my switch it up. My fling a brick by a girl and she a pick it up. Me bossy bong say get you rock, you better quick enough. Cause every mickle make a muckle, be my femino. Become a sport mode dessa, sport mode yassa. GLE blast off on the puzzle. Big Mish, my dog, El Chapo. Everybody make a walk like a Winnie Lotto. Give me your money, Mike, walk, walk. Give me your money, Mike, walk. Come on a big G, like Money Mike them. In a my white, don't style my friend. Expensive, I know the cheap gear them. And the cologne on me like my cheap mind them. Oh, me not for that, just catch a walk. I test it a girl, my hype no ras. Girl, I send girl for me the boss. Yeah, take out your phone and catch the walk. Yeah, yeah, yeah, hey, money walk. Hey, yeah, hey, money walk. Hey, yeah, hey, money walk. I saw me boss it, boss it, boss it. Give me your money, Mike, walk, walk. Give me your money, Mike, walk. Give me your money, Mike, walk, walk. Point your finger, sip your liquor, make your girl take a picture. Mimi, me have my own split. Mimi, me take my own whip. You know me wanna carry me, have my own whip. Me have my own things. Fly out by my own wings. No borrow clothes, no owings. Some girl not get no knowings. Be a pretty girl, I drop G-strings. Man a bad man, me no swing. Tell a fool where you talk, no teeth me no skin. Come put your face under me team. Me a win. Yeah, yeah, yeah. With a bang, bang, bang, bang. All who know why hear me talk, can't stop me career. Fight it, me the world here. So you can't try kill a man, you can't kill him right there. So says the great Jacob of here. In a my town where me grow, you can't have no fear. Coward no live round here. Office stand firm, fi survive and defend your share. The burden the brave must bear. So me go so things and times will tell. So you got to learn your lessons well. Some man live in a mansion, them a get pension. That's why I'm a stay so. Cause we escape from a place where it seem like poverty embrace you. You are try winning at the race when your look is a police a chase you. And a beer gunshot, them a spray, don't think them a miss you. Now a court case you, them a waste you. These are just the facts of life that each man tries to maximize. And meanwhile, some will fantasize of who they can't be, they patronize. The only thing we are. Se me falsos sobran por ahí. Que dicen que a ti te quieren por lo que tienen. Ser humano, eso le conviene, no. ¿De dónde vengo yo? My people, my people. ¿De dónde vengo yo? Oh. ¿De dónde vengo yo? My people, my people, yeah. ¿De dónde vengo yo? Oh. Blood, sweat, and tears. Hey. We don't got no fear. Got to be prepared for this land. Flames are catching a fire. Ah, showed you I loved you, you called me a liar. Oh no, no, no, no, no. Baby, tell me where you gone, gone, gone. I've been feeling for your love so long. We can praise God in the moonlight. Baby, if you with me, better do right. And I've been gone too long, and I'm hoping that you sing my song, my song. I've been on this road for way too long. I've been hoping that we all get along. These roads of flames are catching a fire. Ah, showed you I loved you, you called me a liar. Give Jah the thanks and praises. I've been on my own, on, on. But we ain't never left alone, long, long. And if I'm telling you the feeling is wrong, relax a little, friend, this won't take too long. And when you're feeling alone, you can call my phone. Is there a better way to go? Teach them something before they lose the song. Oh no, no, no, freedom is the road. Oh no, no, no, coming in from the cold. Tell them not to sell it, it's worth more than gold. And guiltiness will catch them in the end. Oh yeah, oh yeah. They'll try to manipulate you through your pockets. Tra le preghiere dei preti e le bestemmie dei tassisti, tra i